è la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Invasion. Provincia. 21 e 13 venite a vedere come funziona la provincia per il quarto anno in diretta qui a Radio Onda Rossa 87.9 in FM sulla banda romana e laziale. Ed in diretta streaming su www.ondarossa.info. Seconda puntata di Do It Yourself Invasion. Come ci sta il Tuscia Grande, come ci stanno sempre tutti. Ricordiamo i contatti della radio. Quindi www.ondarossa.info, il sito della radio. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. Progetto editoriale libero del 1977. In totale autogestione ed autofinanziamento. Ricordiamo pertanto che questo progetto è mantenuto in vita anche grazie ai vostri contributi. Quindi se volete potete sottoscrivere attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00185 Roma San Lollo. Vabbè, sono veloce, tutti i riferimenti li troverete sul sito della radio, nonché potrete andare a sostenere direttamente andando a cliccare su sostieni. E già sotto va una ripresa che abbiamo fatto sabato scorso. Poi ne andremo a parlare più avanti. Per scrivere questa trasmissione è fantasma@ondarossa.info. Nonché se volete chiamare in diretta 0649 1750. Oh, questo è YouTube e questa è il social drama e sabato prossimo a Pagliano. Rotta la corda, però sì, grazie, però per Dio, però sono uguale. Questa si chiama Keep on Expecting Nothing. Ed abbiamo iniziato la scaletta di questa sera con appunto una ripresa fatta all'Out Summer Fest che si è svolto sabato scorso all'Università di Tor Vergata. Il festival è iniziato con i Social Trauma. Insomma, avete potuto ascoltare già proprio con il pezzo 1%. e sembra fatta apposta, ma ci abbiamo in linea proprio un membro dei Social Trauma, Fabio. Buonasera. Buonasera. Insomma, abbiamo iniziato la trasmissione questa sera proprio con un vostro pezzo. Avete aperto l'Out Summer Fest? Sì, quest'anno, ecco, sabato scorso ci è toccato, è stata dura, diciamo, a scapito delle brutte, delle altissime temperature, ma è stata una bella emozione, dai. No, perché i Social Trauma hanno iniziato a suonare con il sole del tramonto, quello che ti prende proprio di sguercio. Sì, proprio dentro l'iride, capito? Sì, non riesci più a capire più le note che fai. Il sole brucia retina, insomma. Esatto. No, beh, insomma, alla fine un bel festival, solita caciara. Perché insomma, quando ci si trova a gestire mille gruppi, però insomma. Sì, quello sì, ma anche un po' gli spazi abbastanza grandi che sono un po' dispersivi, diciamo. Se è un concerto punk hardcore, uno dovrebbe cercare più di trovare un posticino dove tutti si possono rannicchiare da qualche parte. Più aggregativo, invece sì. Insomma, lo raccontiamo, era svolto in una grande piazzale all'interno, insomma, di Tor Vergata, quindi c'era tipo il bancone del bar a 100 metri, il palco dall'altra parte, insomma ognuno si perdeva un po' sparso. Sì, no, cioè, c'era tanta gente, ma ecco, diciamo, alla vista sembrava un po'... un po' ridotta, ma in realtà è andata abbastanza bene, penso. Va bene, insomma, siamo stati tutti contenti del delirio che comunque si è creato. E niente, abbiamo iniziato appunto con questo pezzo dei Social Trauma, dove tu, insomma, hai il ruolo di chitarrista. Sì. Ma ci vuoi parlare proprio di questo pezzo? Sì. Allora, questo pezzo si chiama 1% e diciamo che sostanzialmente è rivolto un po' a noi, è un po' autoreferenziale. Il motivo per cui si chiama 1%, diciamo che c'è una sorta di storiella, se vogliamo, che risale a qualche anno fa, 2010, quando praticamente noi siamo un po' lavativi, non ci interessa troppo delle recensioni, cose varie, però ecco, l'unica piattaforma che abbiamo utilizzato più che altro per condividere la demo dei Social Trauma è stata Punk for Free. Praticamente niente, questa recensione che fecero della demo, diciamo che disse, ecco, diciamo, immaginate una campagna così di provincia, di solito escono cose abbastanza... diciamo un po' minime così, e poi c'è sempre invece quell'1% che ti dà qualcosa di un po' più forte, diciamo. No, tra l'altro, recensione che ricordo, perché insomma siete partiti con questo primo demo già con riscontri molto positivi. Sì, abbastanza, poi dei gusti, busto, eh. Però niente, ecco, è stata un po' quella frase lì, quell'1% che ci ha spinto poi a chiamarci un po' tra di noi così, diciamo, tutti i ragazzi di Paliano, che gli amici che ci seguono in trasferte, ecco, è stato più che altro quello motivo. Voi dove avete iniziato, insomma, a suonare? Noi abbiamo iniziato a Paliano più o meno nel 2009, quando diciamo si erano già disgregati due gruppi, che era a Paliano un gruppo punk hardcore vero, diciamo, che sono i Morta Apparente, in cui suonavano Alberto, il cantante, il batterista, e Daniele, che era il secondo chitarrista dei Social Trauma, che purtroppo non c'è più. E dall'altro gruppo invece, che era un po' più vario, diciamo rock, un po' metallozzo, in cui suonavamo io e il bassista, e praticamente la fusione di questi due gruppi ha dato vita ai Social Trauma, e di conseguenza anche a un'aggregazione del punk hardcore a Paliano, con l'aggiunta di molti amici, compagni che tuttora fanno parte dell'1%, ma questa cosa, diciamo, far parte dell'1% non è una cosa è così vincolante. C'è chi si sente più partecipe, chi si sente meno, certo, partecipe, ma poi quando siamo insieme, diciamo, l'unione fa la forza, quello è sicuramente. No, beh, insomma, sentivo già durante il festival di sabato un forte spirito aggregativo tra i componenti dell'1%, insomma, che cantavano a squarciagola tutti i cori da stadio targati 1%. Sì, perché poi, tra l'altro, quando sei in un paese, diciamo, le alternative sono sempre limitate, quindi. Per esempio, è nata sempre qua a Paliano anche una fazione di ultra del Paliano che sta in prima categoria, quindi, diciamo, squadra non ad altissimi livelli assolutamente, ma comunque nonostante questo, le domeniche mattine, soprattutto dopo il sabato sera, uno si ritrova lì le occhiaie a cantare, diciamo, a tifare. I giocatori sono uno, il fratello di Alberto, un altro il cugino, la sorella non, probabilmente no, però sono tutti quanti amici, capito? Quindi anche nello sport così, cioè, è nata questa cosa dei romantici paliano, quindi ecco. No, ma mi ha fatto, insomma, pensare a questo romanticismo, insomma, come dici tu, che si viene a creare anche in altre situazioni, che, quindi questi due mondi apparentemente distanti, che è quello della musica di strada suonata per strada, insomma, e quella del calcio popolare. Saluto tutti i compagni e le compagne della Spartak di Dance, sia, insomma, chi gioca sul campo sia dei palchi, anche loro sono una presenza dei concerti, insomma, che si fanno in quel settore, insomma, di Ostia e dintorni, quindi mi ha fatto pensare a questa cosa qua. Che poi troppo distanti non sono, perché se parliamo di calcio, ecco, a livello, certo, certo, popolare, presenza, sono abbastanza tangenti le due cose, perché alcune volte le lotte sono le stesse, alcuni cori, diciamo, sono compatibili, anche poi, vabbè, dipende, c'è chi magari uno il calcio lo odia per partito preso, per proprio concettualmente, per lo schifo che può rappresentare su sta società, però ecco, diciamo, se uno abbandona un po' queste cose e lo vive con un certo tipo di passione. Per esempio il batterista nostro, che non importa niente, non so neanche che forma abbia un pallone, però quando va allo stadio impazzisce, al stadio qua Paliano, capito? Non si ferma più, con i timpani, i fumogeni, vabbè. Ho capito. Quindi, insomma, qualche anno fa vi siete formati Social Trauma 1% e avete cominciato, insomma, a fare le cose insieme tra chi, insomma, seguiva i vari gruppi e chi voleva organizzare le cose, insomma, da solo. Quando avete iniziato a fare iniziative? Organizzate da noi, diciamo, quel sabato prossimo sarà la quarta edizione, quindi del Paliano Hardcore Fest, quindi saranno, ecco, appunto, 4 anni fa, 2011 è stata la prima volta che organizziamo qualcosa a Paliano, altrimenti sono un paio d'anni che stiamo organizzando anche un altro evento al Bencivenga, il Vade Retro, che si vede, diciamo, già quest'anno la partecipazione è stata molto più numerosa rispetto all'anno scorso, che, vabbè, ci fu un diluvio universale, a parte quello. Sono iniziative che comunque fatte veramente a bassissimo costo, senza nessun tipo di rientro, anzi, diciamo, più la spesa che il guadagno, però serate che veramente in cui, cioè, sei felice di organizzare, perché sia i gruppi che suonano, che sono tutte persone super disponibili, amici, ritrovarsi in queste sere, in queste circostanze, ti fa dimenticare veramente tutte le problematiche che come noi, come gruppo 1%, diciamo, affrontiamo ogni volta per la realizzazione e la progettazione dell'evento. Comunque sono, diciamo, belle serate, con belle situazioni. Insomma, uniti, insomma, dalla voglia di condividere, insomma, il lavoro che fate. Le nostre idee è non mettere neanche, che ne so, delle sottoscrizioni obbligatorie oppure, cioè, se possiamo, come quest'anno per esempio, abbiamo cercato di cucinare per il più gente possibile, non soltanto per i gruppi che suonavano, ma per chiunque volesse venire, perché, diciamo, anticipare la serata a ora di cena, che sembra strana come cosa, però siamo abituati soprattutto al Benci con gli orari, che se non sono le 11:40 non si inizia a suonare o così. Allora, l'idea di coinvolgere la gente anche prima del concerto, organizzando una cena con i mezzi che disponiamo, coinvolgendo tutti quanti, fate da mangiare, portate da bere, cioè, cerchiamo di stare insieme, ecco, questo è il senso. Cerchiamo di vederci anche prima che inizi a suonare il primo gruppo, e dopodiché, diciamo, il tutto va un po' in degenere, no? Piacevolmente in degenere, però ecco, un attimo, un momento di aggregazione, ma non per dirsi chissà cosa, ma giusto per riuscire a scambiare un po' qualche chiacchiera, così. E quindi ecco, per questo uno cerca di far vivere il luogo in cui c'è l'evento anche dall'inizio, cioè dal pre-serata, ecco. Insomma, come si dice, portate quello che vorreste trovare. Ma ricordiamo dove si svolgerà questo festival? Allora, questo festival sabato prossimo a Paliano. Mm-hmm. Paliano, in provincia di Frosinone, ma diciamo, chi viene da Roma o no, prende l'autostrada o Casilina, uscita Colleferro, dopodiché direzione Paliano, e si trova in un parco che è, diciamo, in prossimità del centro storico di Paliano, si chiama Parco dei Cappuccini. Quindi, cioè, è proprio in mezzo al paese, in mezzo a Paliano? Sì, praticamente sì. Quindi immagino avrete anche qualche problema, insomma, di volumi, sì, stando all'interno del paese. Quindi l'invito magari è quello che facciamo a tutte e tutti, di arrivare presto, sì, a Paliano. Sì, le modifiche ho precedentemente accennato, ma in generale anche per sostenere i gruppi che suonano per primi, così, certo. Quello è sempre d'obbligo. Ok, senti, vogliamo ricordare chi suonerà al festival? Sì, allora, suoneranno i Buttero, che diciamo è un progetto di cui non posso dire niente, ma sempre paglianese. Dopodiché suoneranno, diciamo, suoniamo noi, anche perché, diciamo, per noi questo festival ha anche un'accezione differente, perché è un po' una sorta di memorial per Daniele, che è appunto il nostro amico che è venuto a mancare qualche anno fa, e quindi, diciamo, noi come organizzatori, come gruppo organizzatore, diciamo, suoniamo anche per suonare, diciamo, le cover del vecchio gruppo in cui suonava lui, per me è una cosa abbastanza sentita. A supporto, insomma, del festival. Esatto. E dopodiché suoneranno i Mefitica da Carpineto, che hanno, diciamo, il loro sound molto duro, graffiante, grind. Necro hardcore, esatto. Cioè. E sono nostri cari amici, quindi sempre della provincia. Dopodiché ci saranno i Giorni della Merla, che sono un altro gruppo di Paliano che fanno più street punk, sempre i nostri fratelli del 1%. Dopodiché ci sono i Carnage, e vabbè, non c'è bisogno di presentazioni, soprattutto a Roma, la follia pura. E per finire i No Pro, quindi dalla Tuscia, ci sono si è creato questo gemellaggio col Tuscia Clan, l'1%, che è dovuto a molte trasferte che abbiamo fatto insieme. Sono ragazzi che condividono, cioè con quali condividiamo pressoché tutto, quindi siamo sempre contenti di invitarli. Tra l'altro c'è anche il disco nuovo che è la bomba, quindi ecco, sarà proprio la giornata anche di presentazione come primo live, quindi siamo molto felici e onorati di ospitarli. Bene, bene, bene, come sempre. Insomma, io sono stato l'anno scorso, bella situazione, figo. Vabbè, mancheranno le orche volanti quest'anno, però insomma... Non lo so, perché magari le portano gli assedio, se qualcuno si ricorda. Va bene. Senti, ti sento tipo mixato con dei fuochi d'artificio. No, ti sento mixato con dei fuochi d'artificio, no? Cioè la linea che insomma è un po' ballerina. Va bene, insomma, rinnoviamo l'invito questo sabato. E da che ora per la cena più o meno? Guarda, noi vorremmo iniziare per le 8 la cena e il primo gruppo suonare alle 9:15, 9:30 massimo. Perché dopo noi avremmo come limite mezzanotte e mezza. Proprio perché comunque si trova in un centro abitato. La problematica, ecco, che un centro sociale a Paliano ancora non siamo in grado di tirarlo su, però manca poco. Bene, bene, molto bene. E allora, quindi Paliano Hardcore Fest, quarta edizione a Paliano, all'area Bona di Paliano, al parco, proprio al centro del paese. E dai, insomma, partecipate tutte e tutti. Sì. Ok, ti ringrazio Fabio. Oh, grazie a te, dai. Alla prossima, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. Continuiamo a... proporre delle registrazioni effettuate sabato scorso. Proprio sotto al palco. E allora loro sono gli Inganna Hardcore. Dalla Puglia noi ce li sentiamo un pezzo del loro concerto di sabato. Ci arriviamo, eh? siamo. Ma dai, muovi, che sei giovane. Bellino. A tutti quelli che passano. Sei fatto giovane. E danno dentro dietro sbarre. Contro tutte le forme di galere, di gabbie, fisica e mentale. Oh oh! Sempre il live del Loud Summer Fest di sabato scorso. Insomma, li conosciamo bene da queste parti. Abbiamo avuto il piacere di coprodurre il loro ultimo disco. Nonché abbiamo avuto il piacere di vederli suonare al Forte Prenestino. Benefit Notab, non un sasso indietro, organizzato da Radio Onda Rossa. Benefit Notab. E loro sono gli Obophobic. Thank you. pezzo è dedicato anche a Tuscia Grande, a quelli l'1% di Mariano. E ti costruisce da zero, in realtà, antagonisti. Ultimo pezzo. In realtà, vai, vai. La voce del clan. Quindi un saluto anche al Tuscia Clan e tutta la scena di Viterbo e dintorni. E durante l'Outfest abbiamo avuto il piacere di perderci ai banchetti delle distro. Insomma, siamo venuti a conoscenza di questo nuovo progetto, che è una fanzine cartacea totalmente fotocopiata, che è Passione Nera, una fanzine sul punk, l'hardcore, il metal marcio. Insomma, ci siamo fatti una chiacchierata ed è questa. Sabato 4 luglio ci troviamo qui, Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, prima uscita proprio di Do It Yourself Invasion. Ci troviamo all'Outfest, Festival Hardcore, qui all'Università di Tor Vergata, e insomma, come ci piace fare, andiamo in giro per banchetti, ci fermiamo a guardare le cose, come scopriamo qualcosa, siamo fatti così. Dobbiamo sfogliare, guardare, cominciare a fare domande, perché questa è la nostra passione. E sfogliando nel banchetto della 1% Crew, abbiamo trovato questa fanzina cartacea e ce la facciamo adesso presentare da uno dei creatori di questa fanzina. Buonasera. Ciao, sono Andrea e niente, sta fanzina è... che diciamo tocca un po' tutti i generi, diciamo, underground di questo settore. Tocca sia punk, hardcore o metal, diciamo, non si specializza troppo. E... Non solo punk hardcore, ma io sfogliando ho visto, vabbè, i Bunker 66. No, appunto. No? Vabbè, adesso andremo a svelare perché ci sono i Bunker, però. Appunto, pure voi, metal. E a proposito, appunto, non... toccando questa varietà di generi non l'ho potuta curare da sola, ma mi sono fatto aiutare da amici, tra cui qui presente Chris, che ha curato infatti particolarmente la parte metal. E niente, diciamo, da questo primo numero, non come sta pure dice pure ho scritto pure nella fanzine, non salta troppo all'occhio, però diciamo a più a lungo termine lo scopo principale della fanzine è trattare, pubblicizzare, rendere noti i gruppi italiani, più che altro così gruppi più giovani e poco conosciuti, in modo da fare da trampolino a questi gruppi, che piuttosto che parlare dei soliti grupponi che tutti conosciamo. Quindi un lavoro a supporto dell'underground reale, esatto. delle situazioni che sono, insomma, da far emergere, esatto. Siamo al secondo numero, al primo numero. Ok, quindi fresco fresco, proprio una fanzine, ricordiamolo. Questa è la prima serata in cui lo porto al banchetto. Proprio. Vi abbiamo intercettato proprio sul nascere. Sì. Bello, bello. E altro collaboratore di Passione Nera, guarda, non me lo sarei mai aspettato. Cioè, vabbè, Chris dei Placcaggio. Cioè, vabbè, più che... Diciamo che Chris dei Placcaggio, più che essere conosciuto per i Placcaggio, no, beh, ci abbiamo anche un altro demoniaco. Sì, va bene. Ok, magari dopo gli facciamo fare un saluto. E vabbè, no, insomma, oltre che essere bassista dei Placcaggio, lo conosciamo tutti come il più metallaro di tutti. Cioè, magari. Vabbè, insomma, mi piacerebbe. Uno della vecchia guardia, che è appassionato di heavy metal, sì, lo diciamo. Esatto. E insomma, com'è nata questa collaborazione? Beh, allora, diciamo che io già scrivevo su alcune webzine e stavo già scrivendo su alcune, collaboravo con alcune fanzine tipo Tutti Pazzi, e in generale ho collaborato pure con altri in passato. Ho avuto sempre la fissa Punk for Free sul web, Punk for Free, io ho visto web, qualche recensione. Esatto, quelle più famose è Punk for Free e Tutti Pazzi a livello cartaceo, che è una fanzine old school di Milano. Allora, la passione delle fanzine ce l'ho sempre avuta, in generale per la roba cartacea. Cioè, compro tuttora riviste tipo, ne so, hard rock, classic metal, qualsiasi cosa esca. Ho iniziato con i classici Metal Shock, Grindzone, HM, c'ho pochi numeri, purtroppo di HM ho pochi numeri. E ho avuto sempre la fissa, cioè la passione per il cartaceo. Infatti ho molte fanzine, non sono in italiano a casa, pure tedesche, spagnole, quello che mi capita sotto mano, prendo. È da tanto tempo che volevo fare una cosa cartacea, cioè più che altro non solo collaborare, ma che potevo mettere quello che volevo. Fortunatamente Andrea aveva la stessa idea, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di fare questa cosa. La cosa bella della fanzine, si chiama Passione Nera, è che possiamo mettere, cioè diciamo non c'è proprio un capo, ognuno dice voglio mettere questo disco. Per esempio ho curato più la parte metal, però ho anche messo, ne so, qualcosa di punk rock nuovo, ne so, ho messo dischi storici tipo i Mayhem, ho messo roba che mi piace tantissimo di Bunker 66, che io sono il fan numero uno, anzi saluto Peppe. E quindi la cosa, diciamo, come stavo dicendo, la cosa bella è che ognuno fa quello che vuole, anche senza senso, volendo, cioè possiamo metterti sui... c'è spontaneità, i Ramones affianca i Mayhem e fa due esempi, diciamo che non c'è una struttura preesistente di assolutamente di forma, ma viene così, esatto. Potrebbe cambiare il numero dopo, cioè ogni cosa che ci viene in mente noi la mettiamo senza problemi alla cazzo di cane. Bene, bene. No, una domanda, Andrea. Scusa, ma c'è, cioè, tutta questa storia, no? Fighissima. Ma non era più facile farlo uscire sul web? Ma allora, diciamo, perché farla cartacea? Non nego che di fondo c'è una questione proprio di capacità tecniche, di capacità tecnica che manca. Però, detto sinceramente, anche sapendolo fare, anche perché per questa cartacea è fatta proprio alla buona, pezzi, artigiana, sì, pezzi stampati, ritagliati, incollati e scannerizzati, cioè proprio fatta vecchio taglia e incolla, no, a morte Photoshop, esatto. Basta, no, basta. Noi siamo ancora Paint, quindi Photoshop però proprio perché ci sta sta passione, sta sto gusto di avere le cose in mano, di poterle e che la cosa è accomunabile pure al fatto, come anche Chris, la passione in comune che abbiamo per il supporto vinilico pure. Sta cosa, infatti ne parlo pure nella fanzine. Il fascino pure è un po' retro che c'ha, il fatto di avere la cosa cartacea, cioè, da sfogliare. Diciamo che, vabbè, questa intervista improvvisata non sarebbe mai potuta nascere così spontaneamente se trovavo un link su internet. Da qualche parte è capitato così a caso, insomma, è il bello, è proprio il contatto diretto tra le persone, cioè andare ai banchetti, parlare con le persone. Infatti il fatto di conoscere personalmente la persona che la va a leggere e di vendergliela a mano, appunto, pure questo, sì, assolutamente, è un'altra cosa. Tu non, pubblicando una cosa su internet, non sai chi la legge, l'impressione, l'opinione che può suscitare leggendola o... Quindi c'è la possibilità, oltre che al piacere, insomma, di incontrare direttamente chi sta vicino al banchetto, chi è interessato alla fanzine, interagire, c'è uno scambio diretto e più immediato, sì, quindi cioè è un limite internet è il limite, diciamo, come dici tu, internet è più freddo, ma poi quello che penso io e credo pensa anche Andrea, visto che compriamo qualsiasi supporto materiale, cassette, cd, vinili, riviste, magliette, qualsiasi, io ho sempre pensato così. La roba, nel senso che trovi su internet, oggi ci può stare, domani crasha il server, finisce il dominio, ti oscurano e finisce nel mondo del web. O anche un olocausto nucleare. Qualsiasi cosa, esatto. Una fanzine di carta, tu la puoi anche, ne so, comprare, buttarla dentro al cassetto e dopo un anno la prendi. Cioè, almeno come capita a me, dice, mazza, quella lì l'ho comprata, ne so, a Roma, e hai più ricordi, ma anche proprio... cioè almeno a livello di carta, il toccare, l'odore, cioè, della carta, una memoria fisica, esatto, un ricordo che il web non avrà mai, il web, ma anche un rispetto per il prodotto in sé, ma solitamente ci devi mettere anche più passione, penso, è molto più difficile, ci metti più passione e secondo me la gente apprezza, forse è un discorso più legato tra virgolette agli anni 90, ancora prima agli anni 80, perché dopo il 2000 la roba delle fanzine, molte sono morte, poche fanzine si trovano, idem per esempio su Metal Shock non esce più, cioè anche la gente per far uscire un giornale oggi ci pensa, invece sul web è vero che sul web arriva ovunque, costo zero, la potrebbero leggere anche in Brasile, a parte adesso le barriere linguistiche. Invece chi vuole la fanzine se la fa spedire, magari lontano, vuol dire perché è proprio interessato, altrimenti tu i soldi per una fanzine non li spenderesti. Certo. La stessa cosa per un disco, per un CD. Cioè il tempo che ci sprechi, devi contattare la persona, li mette d'accordo, tutto quanto, c'è più un contatto diretto, c'è più calore, tra virgolette. Benissimo, io direi che insomma l'abbiamo presentata, l'abbiamo fatta conoscere sia a Radio Onda Rossa attraverso l'87.9 in FM, poi girerà insomma il podcast su internet, lo passiamo in giro e vabbè, intanto vengono i disturbatori tipo Pompeo, eccolo, va bene. Oh, e ti ringrazio, no, grazie per il contributo a questa trasmissione, Do It Yourself Invasion, Passione Nera invece la fanzina cartacea, vedremo insomma di farla girare, magari troviamo il modo anche di farla arrivare al banchetto di Radio Onda Rossa, così durante le iniziative cominceremo a farla conoscere. Oh, auguri di tutto, bella Chris, bella Andrea. Grazie. Ciao. 21:59, minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Il quarto anno di fila. E questo è Do It Yourself Invasion. Confermiamo, potrete trovare la fanzina cartacea Passione Nera. È l'1% che l'organizza. Anche sul banchetto di Radio Onda Rossa. Come ci sta il tuo chaglante? Oppure potete passare qui negli studi della radio. e a tutti quelli che organizzano queste cose. Via dei Volsci 56 00 185, di San Lollo. Perché da sempre che non ho preso a se strozzate e fa fortuna a quelli che vanno a presso alle mode, sti cazzi. E sul banchetto di Radio Onda Rossa, nonché qui negli studi, potete trovare l'ultimo lavoro dei Kalashnikov Collective, una coproduzione internazionale che ha visto anche la partecipazione di Radio Onda Rossa in veste di coproduzione. E per tutti quelli che vengono dalla provincia! E per tutti! Il disco L'Algebra Morente del Cielo. Un insieme di tracce come se fossero script di film immaginari che non saranno probabilmente mai realizzati. Quindi ogni brano è accompagnato da uno script. Ci sentiamo adesso appunto la storia introduttiva al brano che ascolteremo dopo. E qui è la voce, è proprio Valeria, voce dei Kalashnikov Collective. Nessuno esce più di casa per paura delle radiazioni. La radio trasmette mantra allarmistici, preghiere e distruzioni per la sopravvivenza, diffuse con voce melliflua, ad ogni ora del giorno e della notte. Bande di biker solcano però le strade polverose su moto che funzionano ad olio esausto delle friggitorie, convinti che le radiazioni non esistano. Pensano che tutta la paura della gente sia prodotta dalla sola esistenza dei messaggi radio. Così viaggiano nel paese, abbattendo i ripetitori ed occupando le stazioni radiofoniche, per interrompere la programmazione d'emergenza e sostituirla con un'arcaica forma d'espressione, della quale gli organi ufficiali hanno sempre disconosciuto fermamente l'esistenza e che, con un termine slang, viene chiamata musica. tutti insieme con il filo di sutura, il motore. Allora, appunto, erano i Kalashnikov Collective. L'algebra morente del cielo. Il loro ultimo lavoro. L'ombra che vedi lassù è un pezzo di cielo che manca, sbranato dai cani che tornano a guardia. Quindi potete trovare il loro ultimo lavoro su vinile. Sempre con la grafica curatissima che caratterizza tutti i lavori dei Kalashnikov. Quindi lo potete trovare qui negli studi di Radio Onda Rossa o sul banchetto durante le iniziative. Altrimenti scriveteci ondarossa@ondarossa.info oppure fantasma@ondarossa.info. No vabbè, insomma, un'ora e ci si dimentica.